Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, benvenuti all'appuntamento di Radio 24 con la cronaca, le storie che non avete sentito altrove. Questa è l'Italia in controluce. Oggi 28 maggio ricordiamo un giornalista ucciso dalle Brigate Rosse esattamente 30 anni fa. È una storia che ci racconta Daniele Biacchessi. Milano è mercoledì 28 maggio 1980, 30 anni fa. È una fredda mattina di maggio. Un traffico caotico a quell'ora, i mezzi pubblici di superficie sostano e poi ripartono secondo un programma ormai stabilito. Chi acquista i quotidiani è all'edicola, chi si trova nei negozi del quartiere. Tutto sembra normale, ma qui la normalità è sull'apparente. Alle 11.10 in via Solari Walter Tobagi esce dalla sua abitazione. Tobagi, inviato del Corriere della Sera, presidente dell'Associazione Lombarda Giornalisti. Intanto i terroristi della Brigata 28 Marzo sono già nella loro posizione di tiro. Marco Barbone, il capo militare, poi Mario Marano, Francesco Giordano, Daniele Laus, Paolo Morandini, Manfredi De Stefano. Mario Marano, Marco Barbone seguono Walter Tobagi in via Salaino. Sono in movimento e i loro passi sembrano felpati. Barbone esplode il primo colpo e il giornalista Walter Tobagi in una manciata di secondi continua a camminare sulle sue gambe. In quel frangente che Barbone mi dice spara, spara. Ed esplodo tre colpi in rapida successione. Tobagi ha un momento di sbandamento va per appoggiarsi a una macchina ma crolla sulle gambe. In quel momento che Barbone dice non è morto, si china anche lui sulle gambe ed esplode un altro colpo. Gli assassini saranno poi tutti arrestati e processati nei giorni del pentimento del capo militare Marco Barbone. Il giudice del Tribunale di Milano quel giorno legge la sentenza. Dichiara il Barbone colpevole di tutti gli altri reati ascrittigli. Lo condanna per il delitto continuato alla pena di anni 8 mesi 6 di reclusione e per le contravvenzioni continuate alla pena di mesi 3 di arresto. Visto l'articolo 6 della legge 304-82, concede a Barbone Marco, Ferrandi Mario, Mazzolo Umberto, Morandini Paolo, Pugliese Pio e Ricciarsi Rocco il beneficio della libertà provvisoria. Walter Tobagi, un giornalista democratico, un cattolico e socialista, un riformista, così si esprimeva in un convegno sui problemi dell'informazione 30 anni fa a Milano, al Circolo della Stampa. È vero che c'è un imbarbarimento della società italiana che tocca tutti, ma sappiamo purtroppo come nasce questo imbarbarimento e possiamo meravigliarci ogni volta che scopriamo degli effetti prodotti da questa situazione. Tutte le volte noi ripetiamo gli stessi appelli e poi vabbè, le cose vanno avanti come prima e vediamo a chi toccherà la prossima volta. Perché colpire proprio lui, Walter Tobagi? Aveva ricevuto minacce? Qual è il percorso del pentito Marco Barbone? L'assassino e le sue vittime. Più volte i loro volti si sono incrociati nelle aule dell'aula bunker di Milano, dove molti anni fa si era celebrato il processo. L'assassino, dopo presto in libertà, i familiari delle vittime che dentro e fuori dai tribunali hanno chiesto e continuano a chiedere una verità piena sull'omicidio di Walter Tobagi. La figura è senza dubbio più rappresentativa anche per la funzione, anche e soprattutto per la funzione e per il suo per la carica di presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti, era il Tobagi Walter. stato messo al corrente di queste minacce, poi mi aveva anche detto, cercava di evitare di parlarne, però mi aveva detto di aver ricevuto delle telefonate, mi pare, di minacce o dei biglietti di minacce, però io non ne ho mai avuti né visti. So che lo aveva chiamato il ministro Rognoni per metterlo al corrente appunto di queste difficoltà, eventuali scorte, protezioni, ma lui era convinto dell'inutilità di una cosa di questo tipo e io d'accordissimo con lui. Chiesi di poter parlare con il responsabile allora dell'antiterrorismo nei carabinieri e al generale della Chiesa. Comunicai la mia decisione di dire tutto quello che sapevo, di pagare un tributo in termini di conoscenza, di grossa conoscenza che avevo sull'ambiente della lotta armata, cioè di cercare di fermare questa macchina di morte che era presente e che coinvolgeva tanti come me stesso. Tutta la sua carriera era stata un po' contrassegnata da momenti di tensione molto forte, da quando era arrivato al Corriere. Sì. Sì. Non mi impedì questo lucido delirio di pormi il problema umano, cioè se fosse giusto troncare una vita, troncare la serenità di una famiglia come mi si presentava. E purtroppo questo problema reale, che vi dico proprio sinceramente, l'ho personalmente, l'abbiamo con gli altri superato in forza di una linea politica, di un credo ideologico che ci ha spinti fino al punto in cui siamo arrivati, fino a calpestare la vita umana non più come valore assoluto ma come variabile politica. Quando vedo il mio Luca che va nel parco solare, che vede gli altri bambini con gli altri, con il papà che li tengono in mano, è tutto per Italia in Controluce. Scriveteci ai nostri indirizzi controluce@radio24.it, siamo anche su Facebook Radio 24 Italia in Controluce. Ci sentiamo oggi alle 13:30. Buona giornata.